Questa è la storia di uno che, io vi assicuro, sembra un re. Aveva donne intorno a sé e senza dubbio aveva il cash. L'ho conosciuto, l'ho un po' invidiato, possiamo dire un po' fortunato. Non lavorava, non si impegnava, state tranquilli che si arrangiava. Fatto così, fatto così. Certo che sì, pronto a fare soldi solo dall'energia. Un tipo onesto ed altruista si dava spazio con la sua cresta, prendeva schiaffi la società, forse deluso dall'umiltà. In quei momenti, in quell'istante, era nervoso, era arrogante, una leggenda in carne ed ossa che andava forte a più non posso. Fatto così, fatto così. A quello lì non scappava nulla, neanche a morire. Hey! Personaggio incoronato il 1° maggio. Fatto così, fatto così. Certo che sì, pronto a fare soldi solo dal venerdì.